Focus Economia di Sebastiano Barisoni. minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico finanziaria. Negative le borse oggi, e ne parleremo anche in apertura. In realtà oggi non c'entra tanto la Grecia, o non solo, diciamo, queste sono tensioni che ci portiamo dietro da mesi e che hanno nuovi sviluppi. Domani ci sarà l'importantissimo incontro con Angela Merkel del presidente greco Samaras, oggi quello con Hollande. Però a freddare gli animi e gli entusiasmi è stato soprattutto un dato tedesco, l'indice PMI, che non è quello delle piccole e medie imprese, ma è l'indice Purchasing Manager Index, cioè l'indice dei direttori d'acquisto nel settore servizi. E quindi si chiede ai vari responsabili degli acquisti per grandi catene, ma non solo, in questo caso nel settore dei servizi, quali sono le loro attese e quali sono state le loro scelte e decisioni. L'indice è calato a sorpresa e questo ha fatto subito ripartire, lo dico prima di tutto, lo spread spagnolo e anche quello italiano, sopra i 500 punti base quello spagnolo, sopra i 430 punti quello italiano. Dicevo, l'indice PMI servizi ad agosto appunto calcolato sulla base delle indicazioni dei direttori d'acquisto, è calato a 48 punti da 50, contro attese di un dato stabile. Al di là dei punti, la cosa importante da sapere è che sotto i 50 punti di questo indice vuol dire che l'attività economica si ferma, va in recessione. Sopra i 50 punti è un segnale che l'attività economica è in espansione. Ecco perché si sono raffreddati tutti gli entusiasmi. Le borse perdono l'1,25% a Milano, lo 0,80% a Parigi, lo 0,90% a Francoforte, e invece Londra è positiva di uno 0,16%, l'America perde lo 0,64% in questo momento. L'euro comunque è in leggero rafforzamento a quota 1,25,70. A casa nostra vanno bene soprattutto Buzzi Unicem più 1,80, Monte dei Paschi più 1,70, Mediaset più 1,15. Vanno male molte delle banche che avevano guadagnato in questi giorni: Generali meno 3,5, Intesa San Paolo meno 2,70, Popolare Emilia Romagna meno 2, ma negativa anche Finmeccanica meno 3,30, Enel Green Power meno 1,80, Telecom meno 1,5, Popolare di Milano meno 1,40, come A2A e Unicredit l'1,30 lo perde anche Enel, Banco Popolare e Atlantia. E questo è il fronte, diciamo, mercati. C'è poi il fronte politica interna o politica economica italiana. Domani c'è un Consiglio dei Ministri molto importante, oggi qualche anticipazione è già arrivata dal Ministro Fornero, come ricordavano i nostri GR, far pagare meno tasse in busta paga da un lato e agevolazioni fiscali per chi assume, ha detto il Ministro Fornero, ne parleremo più avanti, abbiamo uno spazio apposito su questo, ma c'è anche Clini, il Ministro Clini, che punta a agevolazioni e iniziative sul fronte dell'ecologia e dell'ambiente. C'è l'ipotesi avanzata ieri dal sottosegretario Ciaccia di avere una defiscalizzazione parziale, cioè di non far pagare l'IVA per le grandi opere infrastrutturali prioritarie, che però non partirebbero senza un aiuto. E insomma, c'è un governo che inizia a mettere così, a far trapelare diversi elementi, spesso da Rimini, dalla manifestazione del meeting di CL, però una seconda fase, anche di questo parleremo, anche perché, così come battuta, si potrebbe dire che tutte queste intenzioni del governo sono, o sembrerebbero intenzioni di chi non pensa di lasciare il passo a marzo o a febbraio, vedremo quando vi saranno le elezioni, ma si muove con una logica di più ampio respiro. Il ministro Fornero, tra l'altro, ha detto che l'idea della decontribuzione per le imprese che sono attente a chi assume, alle assunzioni, sarà domani all'esame del Consiglio dei Ministri. Il ministro Fornero ha detto: possiamo pensare a una decontribuzione per le imprese, cioè a pagare meno contributi per le imprese che valorizzano il capitale umano. Si può per loro ridurre il cuneo fiscale, è un'idea su cui dobbiamo lavorare, e dicevo, di questo parleremo dopo i mercati. 349-238-6666 per i vostri sms. Adesso rapidamente le altre notizie in breve. oro e petrolio anche oggi stabili. Il petrolio resta a $97 al barile a New York, l'oro resta a $1,660 l'oncia. Per quello che riguarda invece altre notizie di carattere internazionale, è interessante quanto ha scoperto e riporta il Financial Times. Lo shopping cinese negli Stati Uniti, cioè gli acquisti cinesi di aziende americane, sono a livelli record. Pensate che nei primi 8 mesi dell'anno le acquisizioni cinesi di asset e attività americane si sono attestate a $8 miliardi, cioè quasi l'ammontare di tutti gli acquisti fatti nel 2007, quindi anno pre-crisi. Furono 8 miliardi e 9. Tra l'altro, chi sta aiutando di più le aziende cinesi a fare acquisti negli Stati Uniti, a fare shopping, è il gruppo bancario Credit Suisse. Su 8 miliardi di operazioni, infatti, Credit Suisse ha gestito un totale di 5 miliardi sugli 8 totali. Di spread e Spagna abbiamo già detto, e anche d'Italia. Il PIL tedesco nel secondo trimestre è confermato allo 0,3%, sostenuto soprattutto dalle esportazioni più 2,5% e una spesa privata più 0,4%. E abbiamo già detto, insomma, con un PIL così, la Germania, che sicuramente è uno dei paesi che chiuderà l'anno in positivo e non in recessione come Italia, Spagna, Grecia, Portogallo, la Francia chiuderà ferma, però insomma anche lo 0,8-0,9% che farà la Germania non deve esaltare. Abbiamo sempre detto che sotto l'1% si tratta di una crescita modestissima, al limite della stagnazione. Nel frattempo, sulla crisi greca, il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble dice: dare più tempo alla Grecia per fare i tagli di spesa non risolverà i suoi problemi. Va riconosciuta la difficile situazione del governo di Atene, però dare più tempo non è una soluzione al problema, significa più soldi, ma l'eurozona ha raggiunto il limite sostenibile. Oggi appunto a Berlino un incontro Merkel-Hollande per affrontare la questione greca, e domani arriverà a Berlino Samaras per l'incontro con la Merkel. Adesso parliamo però anche dell'ILVA di Taranto, perché ci sono novità che riguardano anche questo programma, e cioè potrà o no mantenere anche con il sequestro l'attività produttiva l'ILVA di Taranto. Prima però due notizie sulla crisi strana, su cos'è questa crisi. Devo dire che una è anche positiva. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Paga la cultura, ed è una bella notizia questa. In tempi di crisi la cultura paga. A resistere meglio sono infatti le imprese impegnate sul fronte della cultura, che quest'anno prevedono di assumere, pensate, 32.000 addetti. 32.250. Negli anni neri tali aziende hanno infatti mostrato una particolare tenuta dell'occupazione, e non è cosa da poco, visto che ci siamo bruciati 10 anni di diminuzione della disoccupazione con 3 anni di crisi. Dicevo, tra il 2007 e il 2011 hanno creato 55.000 posti di lavoro, a fronte di una flessione media dello 0,4% nell'intera economia nazionale. Questo è un dato che emerge dal rapporto dall'indagine Excelsior con Unioncamere e il Ministero del Lavoro. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Chi ce l'ha li metta fuori circolare, miei signori? E chissà che la crisi finirà. Ho una notizia un po' più faceta, vuol dire, siamo ad agosto, non possiamo sempre raccontare solo le criticità di questo periodo. C'è una canzone ufficiale per la crisi dell'area euro, non per la crisi quella scoppiata nel 2008 che riguarda è nata Wall Street, ma proprio per l'area euro. Pensate che la realizza il quotidiano inglese The Guardian con lo studio 20 di New York, che si occupa tra l'altro di formazione per il giornalismo sul web. Allora, se in regia sono pronti, io userei questa come stacco per il primo tema, che è la vicenda Ilva, poi vediamo se usarla anche lungo tutta la trasmissione. 349-238-6666 per i vostri sms. Portugal, Ireland, Greece and Spain. Who's gonna be the man? Greece is solving debt crisis, brought the government to the brink of collapse. As public fury over savage austerity measures erupted in pitch battles with police on the streets about it. There's much to blame for this crisis. Deregulation, speculation, the mortgage scams. It started in the late 90s when European nations said, let's get together. Big deal countries, big deal currency, the Netherlands, France and Germany. You want everybody in that club? Greece only got it because of the most flood. But when he is that young, well, it's just one catch. But things are wrong because the value, cash evaluation helps when recession's afoot. It's easier for foreigners to buy a good. When markets crash in the Eurozone, speculators say Greece can't pay the loan. Since they use the euro, they can't afford this mess by putting more money to refinance it. Portugal, Ireland, Greece and Spain. To save that money. Per fortuna parla solo di bailout di Greece, Portugal and Spain, cioè dell'eventuale fallimento e uscita dell'euro di Portogallo, Grecia e Spagna. L'Italia, perlomeno nel quello che abbiamo sentito, non viene citata, la crisi dell'euro e varie battute sui tedeschi che non vogliono pagare. Ma la riuseremo adesso, dopo questo parentesi, spero un po' almeno, no? Se non rasserenante, un po' di sollievo. C'è chi dice meglio Petrolini, vabbè, ognuno la pensa come vuole. Io saluto intanto Domenico Palmiotti, qui torniamo su un tema serissimo. Domenico Palmiotti, che è corrispondente da Taranto del Sole 24 ore. Buonasera Domenico. Buonasera a voi. Non ti chiederò di commentare questa sigla ufficiale della crisi dell'area euro, perché tu ti stai occupando, volente o nolente, da giorni, chiaramente di quello che sta succedendo all'Ilva. Allora, il Tribunale del Riesame oggi non ha concesso il sequestro con facoltà d'uso, cioè il fatto che potesse essere sequestrato l'impianto ma continuasse a funzionare. Perché... No, diciamo che il Tribunale del Riesame si è pronunciato lunedì e ha appunto confermato il sequestro senza facoltà d'uso. Oggi la novità è che il procuratore capo della Repubblica di Sebastio ha incontrato i custodi giudiziari dell'Ilva, cioè le figure tecniche cui la fabbrica è stata affidata. E le notizie che sono emerse vedono che la magistratura si accinge ad accelerare il suo percorso, a fare un passo avanti. Sebastio è stato chiaro perché ha detto: dobbiamo agire il più rapidamente possibile per far cessare le emissioni inquinanti. Però come si agirà, questo ancora non è definito, non è costruito, perché il procuratore ha detto i custodi giudiziari sono già nella condizione di operare, lo faranno non appena avranno tutte le cognizioni, perché proprio in questi giorni i custodi stanno andando più e più volte all'interno dell'Ilva, stanno acquisendo documentazione, stanno verificando come funziona la fabbrica, le tipologie degli impianti, le loro specificità. Ecco, una volta che questo quadro conoscitivo d'insieme sarà definito in ogni suo aspetto, in ogni suo dettaglio, presenteranno un programma. L'impressione è che si vada verso un tipo di intervento modulare. Sebastio oggi ha detto una cosa importante, dice: noi dobbiamo risanare l'Ilva e dobbiamo far cessare l'inquinamento. Ora, è probabile che per centrare questo fine alcuni impianti vadano spenti, altri impianti vadano tenuti accesi senza produzione, altri impianti vadano tenuti accesi ma con una produzione minima. A Sebastio poi i giornalisti hanno chiesto: ecco, ma l'azienda dice già di essere al minimo. Lui, il procuratore, ha risposto, dice: conta quello che verifichiamo noi, cioè dobbiamo essere noi, attraverso i custodi, a vedere se l'azienda è davvero al minimo. Però ecco, si va verso un ulteriore avanzamento del sequestro. Sebastio ha detto: il sequestro, la procedura del sequestro è già in atto dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza. Adesso si comincia ad entrare un po' più nel dettaglio, si entra nel vivo. Ovviamente non è che si è perso tempo, perché parliamo di un impianto grandissimo, la più grande acciaieria d'Europa, e la più grande acciaieria d'Europa ha una sua complessità tecnica e gestionale che ovviamente richiede del tempo per essere messa a fuoco e per costruire poi il relativo piano di azione. Sebastiano poi ha detto, ecco, a margine dell'incontro con i giornalisti, dopo aver incontrato i custodi, ha detto una frase anche significativa: non dobbiamo andare avanti con le sciabolate, dobbiamo fare il nostro dovere a schiena dritta. Quindi, anche perché il procuratore ha poi ricordato, come il riesame ha detto sì, che l'inquinamento deve cessare, ha detto che non c'è facoltà d'uso, però ha detto anche un'altra cosa: attenti a non distruggere gli impianti, perché gli impianti hanno un certo valore, ha poi aggiunto il procuratore. Quindi ecco, si tratta di tenere insieme tutti questi. Certo. Sì, siamo d'accordo sul fatto che oggi il procuratore ha detto via le emissioni, le conseguenze saranno ovvie, e quindi non mi rassicura tantissimo quello che tu ricordavi, cioè che comunque, siccome si va avanti, diciamo, l'iter del sequestro, alcuni impianti potranno essere fermati, altri saranno, diciamo, non spenti ma non saranno produttivi, altri saranno invece non spenti. Questo lo decideranno i custodi. E oggi l'azienda e i sindacati ha detto che la produzione è già al 70%, secondo 60%, quanto, 60%, secondo quanto un attimo solo, secondo quando ha comunicato il presidente dell'IVA Bruno Ferrante, e poi tutti attendono a questo punto il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per decidere quanto stanziare per gli interventi di risanamento. Mi riferisco ai 160 milioni, i 46 milioni subito disponibili. Nessun rischio cassa integrazione, ma Domenico, per far capire a tutti, cioè da un lato c'è la magistratura che va avanti, tu hai spiegato bene come attenda chiaramente il giudizio dei custodi per decidere una modalità dello stop alle emissioni. Dall'altro però c'è il fronte degli investimenti, cioè dei soldi che devono essere messi, non è che si possa pensare che basti... Certo. E lì mi sembra di capire che l'autorizzazione integrata ambientale sia fondamentale. Certo, Ferrante oggi, ecco, i sindacati gli hanno chiesto nuovamente: vi siete fatti una stima di quanto dovrete spendere oltre i 146 milioni? Perché è fuori discussione che l'ILVA dovrà spendere molto molto di più dei 146 milioni, anzi girano anche delle cifre che parlano di un miliardo, però ecco, sono stime da prendere con molte pinze. Diciamo che Ferrante non ha fornito cifre, dice: devo vedere prima l'AIA, cosa mi dirà l'AIA e soprattutto che termini temporali mi fisserà, perché il Presidente dell'IVA oggi ha fatto questa osservazione ai sindacati: un conto è che mi si dà un certo tempo di qualche anno per mettere gli impianti a norma, un conto che mi si dice lo devi fare tu ILVA in 6-7 mesi, perché a quel punto l'azienda si troverebbe in una situazione di difficile sostenibilità. Un punto però chiaro che ha sollevato Sebastio in proposito, quando ha rimarcato: è l'ILVA che deve pagare gli interventi. Il procuratore ha detto non deve essere mica lo Stato a pagare, tant'è che il procuratore ha chiesto ai custodi di fare una stima su quanto l'ILVA deve pagare, e questa stima i custodi giudiziari si sono impegnati a darla alla magistratura al più presto. Vabbè, su questo devo dire ci sono pochi dubbi. Se venisse dimostrato che l'ILVA non ha ottemperato le richieste in questi anni e le emissioni sono continuate nonostante le rassicurazioni, è l'IVA che deve pagare. Va anche compreso però quello che dice Ferrante, cioè attenzione, se ci chiedi un miliardo subito metti in ginocchio l'azienda. Bisogna capire anche i tempi che tu mi dai per mettere in sicurezza dal punto di vista dell'emissione l'IVA stessa. Però a questo punto la palla, per quello che riguarda la magistratura del sequestro, è in mano ai custodi, che dovranno stabilire appunto sulla base di quello che troveranno le modalità tecniche per perseguire il risultato immediato, ha detto il procuratore di Taranto, di interrompere le emissioni all'esterno, e ha detto anche sempre Sebastio che possono anche passare a una fase già operativa, non appena avranno tutte le cognizioni per farlo. Altro fronte invece è quello dei soldi che lì va promesso, 146 milioni, poi ci sono i soldi che ha messo lo Stato, e quanto servirà per mettere definitivamente in sicurezza le emissioni dell'IVA. Grazie, perché insomma, abbiamo in un senso o nell'altro, piace o non piace, ma c'è stata una nuova evoluzione su questo con la conferenza stampa del procuratore di Taranto al termine dell'incontro con il custode dell'IVA. Grazie Domenico Palmiotti, in collegamento con noi da Taranto. E adesso vedo che ci sono molti messaggi facciamo riascoltare, alcuni la criticano, altri no. Andiamo avanti con la nostra base di oggi, quindi la canzone ufficiale della crisi dell'euro. Portugal, Ireland, Greece and Spain. Who's gonna be on my house? Greece is solving debt crisis, brought the government to the brink of collapse. As public fury over savage austerity measures erupted in pitch battles with police on the streets about it. There's much to blame for this crisis. Deregulation, speculation, the mortgage scams. It started in the late 90s when European nations said, let's get together. Big deal countries, big deal currency, the Netherlands, France and Germany. Didn't want everybody in that club. Greece only got it because the fucker was flow. When he used that yacht, well, it's just one cash. But things here from began to value cash evaluation. Allora, intanto, mentre alcuni criticano, altri elogiano questa canzone ufficiale dell'euro, vabbè, oggi la usiamo. Voglio vedere come vanno i mercati e poi passare chiaramente al commento di borsa e poi ancora chiaramente all'incontro Angela Merkel, François Hollande, preparatore di quello di domani sulla Grecia. Le borse stanno chiudendo in questi istanti, quindi anticipiamo la chiusura. Meno 1,40% Milano, meno 0,80% Parigi, meno 0,90% Francoforte, meno 0,55% in questo momento l'America. Londra di nuovo fa un più 0,07%, sapete la battuta, Londra non può che fare 0,07% da questo punto di vista. Generali meno 3,80%, Finmeccanica meno 3,20%, Intesa San Paolo meno 3,20%, Popolare Emilia Romagna meno 2,5%, Enel meno 2%, Mediolanum meno 1,90%, Mediobanca meno 1,70%, come Unicredit A2A meno 1,60% come Telecom Italia, Banco Popolare meno 1,40% come la Pop Milano, di Assorin meno 1,30% come Azimut ed Enel. Monte dei Paschi più 1,70%, Buzzi Unicem più 1%, Media 7 più 0,60%, Parmat più 0,30%, Pirelli più 0,22%. Allora, meteo, pubblicità e poi la borsa, le tensioni europee e il Consiglio dei Ministri di domani. 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, la borsa, dicevamo, negative dopo l'indice tedesco dei responsabili e dei direttori degli acquisti, indice che in Germania sostanzialmente, al di là di tutte le tecnicalità, ha segnato, quando è sotto i 50 punti segna una stagnazione barra recessione economica, sopra i 50 punti invece segnala un'espansione dell'economia. Tanto è bastato per far ripartire gli spread e soprattutto anche per, da questo punto di vista, penalizzare tutte le borse. Ne parliamo come sempre con Radio Cori sulle 24 ore, nulla di grave nemmeno oggi, la peggiore devo dire è Milano. E ne parliamo con Radio Cori sulle 24 ore come sempre, dicevo, nella persona oggi di Ceo Condina. Buonasera Ceo. Ciao, buonasera a tutti. Sì, insomma, quel dato non ha creato un buon clima, devo dire che siamo ancora in pieno periodo ferragostano. Andiamo sui singoli titoli, c'è anche l'apertura di Wall Street comunque che ha penalizzato le borse e poi alcune dichiarazioni che arrivano da membri regionali della Federal Reserve. C'è questo James Ballard, no? Sì, di St. Louis. Sì, di St. Louis. Sì, perché ieri sera erano state rese note le famose minute della Fed, che altro non sono che i verbali dell'ultima riunione, che lasciavano aperto lo spazio a ulteriori stimoli monetari da parte della Banca Centrale Americana nel caso l'economia ne avesse bisogno. Oggi invece Ballard ha detto che non bisogna serbare così tante speranze di interventi monetari, comunque si tratta di verbali che risalgono a qualche settimana fa, raffreddando così l'entusiasmo degli investitori, visto che oggi le borse hanno aperto positive proprio per le indicazioni della Federal Reserve. Così Wall Street ha aperto negativa e anche Milano insomma è scivolata ed è la peggiore, con un ribasso dell'1,3%. Ancora, andando invece sui singoli titoli, bene i titoli legati alle costruzioni dopo l'ipotesi avanzata ieri da Ciaccia, sottosegretario, di defiscalizzare, ridurre l'IVA per le grandi opere prioritarie ma che altrimenti non decollerebbero. Buzzi Unicem più 1,24%. Ancora Monte dei Paschi, una delle poche banche positive con forti volumi. Eh sì, praticamente l'unica banca positiva, con volumi scambiati pari a circa il 2% del capitale, quindi continua, continua il titolo a essere sotto i riflettori. Oggi cresce perché cominciano a circolare sul mercato le prime indiscrezioni su quello che potrebbe essere il nuovo collocamento da parte della fondazione, un collocamento che potrebbe essere pari al 5-6% del capitale da chiudere entro la fine dell'anno, con una prima cessione circa del 2-8% che potrebbe avvenire verso l'autunno, quindi col concretizzarsi delle ipotesi appunto per la cessione di ulteriori quote, di quell'allargamento dell'azionariato di cui aveva parlato recentemente il presidente Alessandro Profumo, ecco di nuovo gli acquisti sul titolo. Ancora per quello che riguarda la borsa è al di là di Monte dei Paschi, Finmeccanica. Ieri aveva corso, oggi c'è una notizia della rinuncia della Qantas al Boeing 787 Dreamliner, no? A 35 ne aveva ordinati. 30, sì, niente, non se ne fa più niente. Ecco, quindi lì Finmeccanica costruisce le grottaglie e la fusoliera, se non ricordo male. Sì, perché insomma anche Qantas fondamentalmente sente la crisi, risparmierà, pensate, 8,5 miliardi di dollari cancellando quest'ordine, però Finmeccanica insomma non ride perché fa la fusoliera e appunto viene meno una commessa decisamente significativa. E poi Generali e Intesa, ma anche le utilities. No, Generali era, e Intesa erano due titoli che erano cresciuti molto, anche per motivi diversi. Generali sempre sulla scia della cessione delle attività USA, che potrebbe fruttare anche oltre un miliardo di dollari. Intesa è stata una banca che ha performato molto bene nell'ultimo periodo, come peraltro altre tra virgolette concorrenti, e oggi hanno perso più del 3%. Anche le utility erano salite, A2A in particolare oggi ha perso l'1,5%, peggio ha fatto nel Green Power, -2%. Ancora andiamo su titoli minori e mi riferisco soprattutto minori ma che sono molto mossi. Risanamento, già ieri le ipotesi che il gruppo guidato da Manfredi Catella, quindi Ines, quello che sta costruendo la Porta Garibaldi a Milano, la città della moda, potesse essere interessato a rilevare Santa Giulia. Oggi il risanamento fa un più 18,5. Sì, è stato sospeso ancora una volta per buona parte della seduta. Infatti ieri sera, alla fine, visto il rialzo così corposo che c'era stato, la Consob ha chiesto chiarimenti a risanamento su quello che era stato indicato da indiscrezioni di stampa, e il risanamento ha ammesso che a fine luglio ci sono stati contatti appunto tra il loro advisor finanziario e Heinz Italia per la cessione di Milano Santa Giulia. Questo non vuol dire che poi insomma ritorno dalle vacanze questa operazione realmente si faccia, però intanto gli operatori ci scommettono. Sì, c'è chi dice ma state minimizzando, niente di grave, anche oggi la borsa ha perso dopo che lo spread, insomma, dice che sostanzialmente stiamo minimizzando. No, guardi, non minimizzo nulla e mi sembra che ci sia poco da minimizzare in questo periodo. Voglio dire, cioè, se poi la borsa perde l'1,20 non mi strappo i capelli con questi chiari di luna, e se a Parigi perde lo 0,80 non mi sembra una giornata così negativa. Dopodiché io gli attributi intesi come aggettivi li userei per la borsa e per altre situazioni ben più problematiche, che non è detto che siano scomparse, anzi ci aspetta un settembre più caldo del previsto e al di là delle previsioni meteo, quindi nessuno minimizza nulla qui. E invece andiamo avanti, di risanamento abbiamo detto tra i migliori e peggiori in assoluto, cito B-Team +16,67, EMS +16,40, Ferrovie Nord +11,50. Sul fronte opposto Cofide -7,20, Carrefour -5% e anche Poligrafica San Faustino -5%. Tra i titoli abbiamo detto tutto, alcuni di voi vogliono sapere che cosa ha fatto Eni -1%, ci chiedete di Ubibanca -0,90% e di Fiat -0,70% Fiat, Tenaris -0,78%. Grazie a Ceo Conde, Radio Corri, Sole 24 Ore. Allora, avete, devo dire, in larga maggioranza bocciato la sigla ufficiale, la musica ufficiale dell'euro. Io non ve la rimando più in onda, per carità. C'è chi dice che è ansiogena, c'è uno che addirittura ha scritto: la crisi è brutta, ma la sigla, ma la musica ancora di più della crisi. Va bene, dite che era meglio la ballata dell'euro. Vabbè, allora, addirittura alcuni scrivono che questa musica è ansiogena. e la voce è, diciamo, beh, non posso dire da che cos'è, e allora a ballata dell'euro, vai. Quinta di Beethoven, riappare il nostro Vittorio D'Arold, segregato a Berlino. Buonasera Vittorio. Vittorio? Buongiorno a voi. Beh, allora, buongiorno a voi. Sì, buongiorno a Berlino, buonasera qui, insomma, è cambiato il fuso. Parte gli scherzi, oggi incontro Hollande, Merkel, le attese su domani, mi sembra che più passa il tempo, più si stia sgonfiando di grandi attese, lo dicevamo anche ieri, l'incontro Merkel-Samaras, però insomma lui fa bene a chiedere più tempo. Oggi a gelare gli entusiasmi ci ha pensato ancora una volta uno dei falchi tedeschi, il ministro delle finanze Wolfgang Schäuble, che ha detto dare più tempo alla Grecia per fare i tagli di spesa non risolverà i suoi problemi, e aggiungendo che è vero, va riconosciuta una difficile situazione del governo di Atene, ma dare più tempo ad Atene per fare i tagli da 13 miliardi e mezzo significa più soldi e l'Eurozona ha raggiunto il limite sostenibile. Hollande, Merkel. Sì, esattamente. Guarda, la situazione è molto complessa in effetti, perché Hollande farà questa riunione, questa cena di lavoro alle 19, ci sarà un comunicato della Cancelleria e poi appunto della Presidenza francese, ma non ci sarà conferenza stampa. Io ho cercato di entrare appunto in ambasciata francese, che è proprio di fronte a Brandeburgo, alla porta di Brandeburgo, quando stavano arrivando i colleghi francesi invitati, chiedendo di poter essere inserito nella lista speciale, ma il responsabile dell'ufficio stampa della presidenza ha detto che assolutamente no, è riservato solo ai colleghi francesi, anzi solo a pochissime testate francesi, non ci sono nemmeno tutte, è proprio uno sparuto gruppo di 6-7 giornalisti francesi arrivati direttamente da Parigi. Quindi la questione, anche questa, rende un po' l'idea di come insomma la situazione sia gestita ancora in termini sempre molto di politica interna. Ognuno dei vari leader guarda più alle proprie diciamo così questioni interne piuttosto che affrontare il problema appunto generale dell'Eurozona. Hollande parla appunto ai giornalisti francesi, la Merkel parla a una opinione pubblica che appena vede che c'è un leggero tentativo di ammorbidire la linea dura contro la Grecia, che in effetti con il 7% di recessione non può fare i miracoli, immediatamente entra in campo Schäuble alla vigilia dell'incontro, che fa il poliziotto cattivo e dice: questo ritardare i tempi vuol dire altri 20 miliardi, non ha detto cifre, ma girano questi dati appunto da fonti di mercato che un ritardo nei tagli della Grecia vorrebbe dire altri 20 miliardi sul piatto, che si aggiungono ai 173 già messi in campo. Sì, quindi continua questo montagne russe della comunicazione europea. Sì, tra l'altro su questo va anche detto che la Germania oggi è stata un po', niente di allarmante, ma l'epicentro di tutto del raffreddamento degli entusiasmi per via di questo indice PMI dei direttori dei servizi, cioè che starebbe a segnalare una Germania che, come da previsione, non va oltre lo 0,8-0,9% del PIL quest'anno, perché è un dato sotto i 50 punti, per cui a 48 punti per quello che riguarda i responsabili dei direttori, sì, d'acquisti, per cui immagino che ci sia anche il tema della tenuta tedesca, se così vogliamo dire. Esattamente, cioè al momento diciamo i dati che sono usciti sul PIL sono favorevoli, perché ha una crescita sul primo trimestre dello 0,3, quindi una crescita dell'1% dal secondo trimestre rispetto al secondo dell'anno precedente. Quindi ancora tiene, la Germania tiene, poi soprattutto i primi 5 mesi hanno dato un attivo di bilancio, quindi la Germania è in attivo con i conti, addirittura perché entrano tasse e contributi più di quante siano le spese, una cosa che non accadeva da 5 anni. Quindi in qualche modo la salute finanziaria ed economica della Germania resta elevata, anche se questo dato sta a significare che ci sono già delle tendenze, delle preoccupazioni. Perché preoccupazioni? Perché la Opel metterà in cassa integrazione gli operai, appunto perché i paesi periferici non acquistano più le macchine, le auto tedesche, le più economiche, come sono appunto quelle della Opel, che fa parte del gruppo General Motors, che ha 2 stabilimenti qui in Germania. Questo è già il primo segnale, cioè se i paesi periferici non comprano, la Germania naturalmente ne risente, e si parla già di recessione europea con questi dati di cui parlavi tu. L'Europa quindi si avvicina di nuovo a un altro momento di recessione. La Germania tiene, ma non può tenere naturalmente tutto il mercato, e quindi anch'essa dovrà subire, tiene meglio degli altri. Anzi, la cancelleria ha fatto sapere che a fine mese la Merkel andrà in Cina, è invitata appunto dal gruppo dirigente cinese, perché per loro il mercato cinese, il mercato degli emergenti, diventa sempre più importante, si stanno quindi già posizionando per differenziarsi. Tutti elementi interessanti, ma che non risolvono la natura della crisi europea, che è una natura appunto di maggiore, di cessione di sovranità per avere un maggior controllo ed evitare questi continui balletti nei confronti, ad esempio, come stiamo vedendo per la Grecia, di fare pressioni in questo modo, perché in realtà non c'è un meccanismo di controllo a livello federale che imponga agli stati membri di fare quello che poi promettono. Certo, vedremo poi comunque domani. Fatto bene ricordare anche il dato della Opel e delle difficoltà che ha poi una Germania tutta legata all'export, o molto legata all'export, e in particolar modo l'export verso l'Europa, che rappresenta ancora quasi il 50% dell'export complessivo, se si ferma parte dell'Europa. Grazie Vittorio D'Arold. E adesso, prima del meteo, anzi del traffico, anzi partiamo con il traffico, così poi facciamo l'intero ultimo approfondimento tutto in una volta, e mi riferisco al Consiglio dei Ministri di domani, proposta di decontribuzione per chi ha un particolare atteggiamento con gli assunti, con i dipendenti, di minor carico fiscale in busta paga per i dipendenti, di minor IVA per i costruttori delle grandi opere definite prioritarie ma che non potrebbero decollare. Insomma, più di un elemento sta emergendo su quello che sarà il CDM di domani. 349-238-6666 per i vostri SMS. Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia. E allora, domani il Consiglio dei Ministri dedicato in primo luogo alle misure per la crescita, defiscalizzazione dell'IVA per le opere infrastrutturali in project financing, come annunciato ieri dal Vice Ministro Mario Ciaccia, vale circa 50 miliardi di euro in 10 anni la misura. Si discuterà però anche del programma taglia debito da 1 punto di PIL, quindi da 14-15 miliardi all'anno, del Ministro dell'Economia Vittorio Grilli, dismissione di immobili e partecipazione dello Stato, quindi il patrimonio immobiliare dello Stato, ma anche le partecipazioni in grandi società, e della fase 2 della spending review, e quindi della revisione della spesa pubblica per avere meno spesa ma soprattutto più efficienza. Scusatemi. All'esame del CDM comunque anche la proposta del ministro Fornero per una possibile sperimentazione di una decontribuzione per le imprese che sono attente al capitale umano. E allora il ministro Fornero, oggi, dopo aver detto che il fisco c'è troppo fisco in busta paga, e sarà un suo impegno, la prima aspirazione di un ministro del lavoro, argomentare tale istanza, ha detto, e assieme all'equilibrio dei conti, ha poi detto tagliare il cuneo fiscale potrebbe essere un'ipotesi per chi valorizza i lavoratori. Domani porterò in Consiglio dei Ministri la norma sulla decontribuzione per quello che riguarda le imprese attente al capitale umano, e poi ha aggiunto: sono in arrivo misure mirate per i giovani. Abbiamo troppo poco guardato alla difficoltà di incontro tra l'offerta di capitale umano e la domanda. Le nostre imprese si lamentano del fatto che i nostri giovani non sono preparati. Però i nostri giovani, quando vanno all'estero, sono in generale considerati molto preparati. Qui c'è una difficoltà di incontro su cui dobbiamo interrogarci. Allora noi dobbiamo fare investimento in capitale umano, che vuol dire essere molto più attenti ai percorsi formativi anche di professionalità artigianali, di professionalità che abbiamo dimenticato, che abbiamo abbandonato, che abbiamo forse anche un po' mortificato. E poi il ministro Fornero è tornata anche sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Poi c'è un grande capitale umano che un paese che vuole crescere non può permettersi di sprecare. E queste sono le donne. E noi stiamo sprecando generazioni di donne. Dobbiamo vincere resistenze, perché il capitale umano delle donne non vada disperso. E sapete cosa vi dico? Che qui c'è un'associazione fortissima con i requisiti della crescita. Una crescita si deve basare sul pieno riconoscimento del merito. E vabbè, mentre intanto il presidente dell'ANCE, ieri già il presidente Confindustria Squinzi, aveva applauso a quello che è stata l'iniziativa del governo e quant'altro, ha detto che va nella giusta direzione, ma insomma, adesso non vorrei inserire una punta di polemica, ma di dialettica sì, mi sembra che il Consiglio dei Ministri di domani sia un Consiglio dei Ministri che vuole dettare le linee guida per i prossimi anni, ben venga, per carità, c'è un piccolo dettaglio. Il governo Monti teoricamente esaurisce i suoi effetti a marzo con le elezioni, o se vengono anticipate dal Presidente della Repubblica a gennaio e febbraio. Vorrei mettere assieme tutte queste valutazioni, cioè Mario Monti e Corrado Passera che vanno al meeting di CL e dicono insomma iniziamo a vedere qualche segnale che l'evoluzione della crisi stia andando verso il meglio, quindi rassicuranti. Rassicuranti anche quanto annunciato ieri da Ciaccia, sottosegretario Ciaccia, per le imprese, minore IVA per chi deve fare le opere infrastrutturali prioritarie. Oggi il ministro Fornero che ha detto stiamo pensando a una decontribuzione. Se mi può passare la battuta Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, che saluto e ringrazio. Ciao Guido. Ciao, buongiorno. Mi sembra un governo che sta preparando la sua campagna elettorale. Non ci sarebbe nulla di male, diciamo. Però avrebbe un senso se il governo fosse politico. Dice, vabbè, inizio a farti vedere la fase 2, perché a marzo sì. Si va a elezioni. Sarebbe assolutamente normale, a parte il fatto che è un dovere anche del governo, questo sa va san dire, iniziare a predisporre una fase di crescita e non solo di tagli, tasse e innalzamento dell'età pensionabile. Però, diciamo, questo spirito, lo slancio, la priorità messa per un governo che scade, uno cinicamente potrebbe dire, ma tanto voi, il vostro compito era tenere in ordine i conti, poi arriverà il prossimo governo politico a fare l'altra parte. Sì, la situazione è oggettivamente un po' questa. Io credo che innanzitutto bisogna dire domani abbiamo solo una ricognizione dei problemi e la presentazione generale delle linee guida di un piano di sviluppo. Non ci sarà nessun decreto, credo. E quindi non ci sarà nulla di operativo. L'orizzonte è quello di dicembre e quindi disporre quelle azioni che il governo può fare entro dicembre. E in questo quadro c'è quello che dicevi tu, cioè la questione politica della portata politica di questo governo e quindi è giusto mettere in relazione le dichiarazioni che ha fatto Monti al meeting di Rimini domenica, dove intravedeva una luce in fondo al tunnel, e gli stessi concetti li abbiamo visti martedì in alcune analisi delle agenzie di rating, in particolare Fitch, che ha parlato di tunnel e di luce, ma proprio Fitch diceva attenzione, bisogna continuare sulla strada delle riforme, Monti ha grande credibilità. Se per caso viene meno questa spinta, ci saranno nuovi brutti voti in pagella e un declassamento per l'Italia. Quindi l'avvertimento è stato chiaro da questo punto di vista. Ecco, tu hai fatto bene a far notare che domani non arriverà un decreto, però insomma è ripartito a sprombattente il governo e l'iniziativa, perlomeno sulle dichiarazioni, perché poi siamo abituati in questo paese che le dichiarazioni si fanno e gli atti concreti delle volte meno, però è ripartito con una vena o perlomeno con una connotazione quasi politica di cercare ancora maggior consenso. Ripeto, non voglio sembrare cinico, però uno potrebbe dire un governo tecnico che bisogna del consenso, è stato chiamato per tirare fuori l'Italia da una situazione di emergenza. E quando sento parlare di investimento a 10 anni, per esempio quello sulle infrastrutture che varrebbe appunto 20 miliardi, adesso vado a riprendermi il dato, 20 miliardi in 10 anni, mi viene sempre in mente che insomma questo è un periodo di tempo molto ampio. Anche aver ottenuto il plauso della Confindustria, 50 miliardi in 10 anni, la misura di Ciaccia, cioè detta tutta, non è che si sta preparando un Monti bis come ipotesi, perché tutta questa ricerca del consenso, dai, stiamo ruotando intorno a questa ipotesi. La giornata di oggi mi sembra significativa anche rispetto a quello che dicevi tu, alla dichiarazione che ha fatto il vice segretario del PD Enrico Letta, che è alle porte una soluzione per la legge elettorale, per la riforma della legge elettorale, e questo ovviamente è un altro punto che va a indicare la partita che si sta aprendo per un Monti bis fin da queste settimane. E qui tu dici il fatto che i partiti sembrino aver raggiunto un accordo sulla riforma della legge elettorale è in qualche modo un ulteriore puntello per un'ipotesi di Monti bis, al di là del fatto che, come scrivono molti ascoltatori, non si capisce chi potrebbe prendere il posto di Monti e avere una credibilità uguale in Europa, perché attenzione, il problema non è che ci crediamo noi, questo va bene, ammesso e non concesso che il corpo elettorale creda a questa classe politica, che non mi sembra abbia fatto tutti questi rinnovamenti, ma detto questo il problema è che ci devono credere fuori. Il caso greco e spagnolo in senso virtuoso, greco in senso negativo, a suo tempo sono lì a dimostrarcelo. Sì, e poi vorrei anche aggiungere che comunque questo sarebbe un percorso che prevede le elezioni diciamo all'inizio dell'anno. Ecco, tu ci credi che il Presidente della Repubblica, prima che entri nel semestre bianco, cioè quando non può sciogliere le Camere, gli ultimi 6 mesi del suo mandato Napolitano non può sciogliere le Camere, e quindi entro gennaio, massimo febbraio, possa sciogliere le Camere per continuare comunque a dirigere, mettiamola così, all'interno del suo ruolo costituzionalmente dato, quello che potrebbe essere il nuovo governo? Ma io credo che ci sia una convergenza in questo momento, c'era anche nei mesi scorsi ovviamente, ma una convergenza fortissima tra il Presidente del Consiglio Monti e il Presidente della Repubblica Napolitano di arrivare in qualche modo a una soluzione che preservi l'azione riformatrice che è stata presentata e approvata in Europa. Quindi automaticamente scatta questo meccanismo per cui stiamo ragionando del Monti bis. Vorrei però aggiungere che c'è sempre di mezzo un voto, perché nessuno può dirci in anticipo quali saranno i risultati del voto, indipendentemente dalla riforma elettorale e dalle intenzioni dei partiti. E quindi c'è sempre un'incognita aperta su cui però in questo momento nessuno parla. E cioè tu dici, se ci fosse un voto che andasse a premiare e magari contemporaneamente a punire, premiare uno schieramento e punirne in maniera forte un altro, questo potrebbe far saltare l'ipotesi del Monti bis, cioè solo un voto ovviamente complica molto il quadro, potrebbero anche rafforzarsi le estreme sia di sinistra sia di destra, quindi ovviamente questo con delle ripercussioni importanti anche rispetto alla costruzione europea e alla maggioranza, alla maggioranza parlamentare, certo. E quindi questi sono dati su cui noi riflettiamo, ma non abbiamo in tasca il risultato comunque del voto, nessuno ce l'ha. Ah no, questo non ci sono dubbi, però è interessante vedere come l'iniziativa di Mario Monti non sia in questo momento limitata, se mi passa il termine, a un governo tecnico, ma abbia un respiro di fase 2, quindi più tempo, più anni e quant'altro. Tu hai ben chiarito che insomma l'ipotesi del Monti bis è l'ipotesi assieme alla riforma della legge elettorale su cui sta lavorando stanno lavorando i nostri partiti. Grazie a Guido Gentili. Focus Economia termina qui, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi per commentare sia il Consiglio dei Ministri che l'incontro Angela Merkel e il presidente greco Samaras. Radio 24, la passione si sente.